belli in pezzi, in tasca pezzi. E adesso guarda la mia vita andare in pezzi, sogni in pezzi, ci siamo persi. Non trovo più la via d'uscita. Ma avessi i tuoi soldi sai già cosa ci farei. Fanculo il resto, questo è 126. Avessi i tuoi soldi se capara con i miei. Ci fottano gli altri solo 126. Pezzi, ho il cervello a pezzi. Ho il cervello sui pezzi. Blu, gialli, viola, arancioni, rossi e verdi. In giro con la gang, in giro con i miei fratelli. Cerchi problemi, siamo pronti a farti a brandelli. Chissà se mi pensi perché io ti sto pensando. Fumo per stare calmo, GQ mi fa stare alto. Orecchini così grossi che non sento se parlano. Esisti solo te, gli altri non sento se parlano. So che resteresti anche con tasca zero. Io che come uno scemo muoio solo al pensiero. Grazie a mio fratello mi ha insegnato a fare i pezzi. Dark gang, 777, vinceremo per sempre. Pezzi, cervelli in pezzi, in tasca pezzi. E adesso guarda la mia vita andare in pezzi, sogni in pezzi, ci siamo persi. Non trovo più la via d'uscita. Sento il vuoto mentre scarto pacchi sotto vuoto. Non c'è modo di andare via puliti da sto mondo. Ian solo ti piaccio perché sono una canaglia. La mia benedizione è la mia condanna. Ho lasciato i pezzi lungo la strada, ma ci siamo persi lungo la strada. Non fermarti adesso è lunga la strada. E i miei fratelli persi per strada. Pezzi sciolti nell'aranciata. Mi hai fatto a pezzi e te ne sei andata. E adesso come pensi che vada? Piovono pezzi di neve gialla. Pezzi, ho i pezzi. Se vuoi facciamo ai mezzi. Guardaci bruciare come crack su una Pepsi. Pezzi, a pezzi. Foto ricordo a pezzi. Restano solo i pezzi. Quei pezzi. Pezzi, cervelli in pezzi. In tasca pezzi. E adesso guarda la mia vita andare in pezzi. Sogni in pezzi. Ci siamo persi. Non trovo più la via d'uscita. Avessi i tuoi soldi sai già cosa ci farei. Fanculo il resto, questo è 126. Avessi i tuoi soldi se capara con i miei. Ci fottano.